Ad alta voce. Peppe Servillo legge Le voci di Marrakesh di Elia Scanetti. Traduzione di Bruno Nacci. La famiglia Dahan. Quando la mattina dopo ritornai nella Mellah, andai più in fretta possibile nella piccola piazza che avevo soprannominato il cuore, e poi alla scuola, dove ancora dovevo dei soldi al maestro, con il volto che sembrava una maschera. Egli mi accolse come se in quel posto non ci fossi mai stato, esattamente nello stesso modo, e forse era in procinto di ricominciare da capo la cerimonia della lettura. Ma io lo prevenni e gli diedi del denaro, ritenendo di avere un debito con lui. Egli lo prese subito, senza il minimo indugio, e con un sorriso che fece apparire il suo volto ancora più rigido e più stupido. Mi aggirai per un po' tra i bambini. Osservavo quel loro leggere muovendosi ritmicamente, che tanto mi aveva impressionato il giorno prima. Quindi lasciai la scuola e andai gironzolando per i vicoli della Mellah. Il mio desiderio di entrare in una casa era cresciuto. Questa volta non volevo assolutamente lasciare la Mellah senza prima aver visto una delle sue case. Ma come potevo entrarvi? Mi serviva un pretesto, ed ebbi la fortuna di trovarlo subito. Mi fermai davanti a una delle case più grandi. Nella strada il suo portone spiccava tra gli altri per una certa rispettabilità. Il portone era aperto. Diedi un'occhiata nel cortile. Sul lato opposto era seduta una donna giovane, bruna, estremamente radiosa. Era stata lei, forse, ad avere attratto inizialmente il mio sguardo. Nel cortile giocavano dei bambini, e poiché ormai avevo qualche esperienza delle loro scuole, mi venne l'idea che avrei potuto osservare quella casa come se fosse una scuola, fingendo cioè di interessarmi ai bambini. Mi fermai e guardai dentro, oltre i bambini, in direzione della donna. Ma un giovane alto, che non avevo notato, si staccò dopo un attimo dal fondo del cortile e si diresse verso di me. Era slanciato, teneva il capo fieramente eretto e portava una veste ondeggiante che lo faceva apparire assai distinto. Si fermò davanti a me, mi guardò con occhi seri e inquisitori e subito mi domandò in arabo che cosa volevo. Risposi in francese: «È una scuola questa». Egli non mi capì. Esitò un istante. Disse: «Attendez». E subito si allontanò. Questa non fu l'unica parola che pronunciò in francese, perché quando ritornò in compagnia di un tipo più giovane, un vero damerino francese vestito perfettamente all'europea e per di più come nei giorni di festa, egli disse ancora: «Mon frère, et parle français». Questo suo fratello minore aveva una scialba ottusa faccia da contadino ed era molto scuro di pelle. In un altro abbigliamento lo avrei preso per un berbero, ma di quelli brutti. Parlava davvero francese e mi chiese che cosa desiderassi. «È una scuola questa?» domandai. Ma già mi sentivo un po' in colpa, perché non avevo saputo trattenermi dal guardare ancora una volta la donna in fondo al cortile, ciò che a quei due non era sfuggito. «No», disse il fratello minore. «Ieri c'è stato un matrimonio». «Un matrimonio? Ieri?» Ero molto stupito. Sa Dio perché, e di fronte alla mia vivace reazione, a lui sembrò opportuno aggiungere: «Si è sposato mio fratello». Con un lieve cenno del capo, indicò il fratello maggiore, quello che io trovavo così distinto. Adesso avrei dovuto ringraziare per l'informazione e riprendere la mia strada. Invece indugiai, e allora il giovane sposo, con un gesto invitante del braccio, mi disse: «Entrai. Entri». Suo fratello aggiunse: «Vuole vedere la casa». Ringraziai ed entrai nel cortile. Il gruppo dei bambini, saranno stati una dozzina, si sciolse per farmi passare. Attraversai il cortile accompagnato da entrambi i fratelli. La donna giovane e radiosa si alzò in piedi. Era ancora più giovane di quanto avessi pensato. Avrà avuto 16 anni. E nel presentarmela, il fratello minore mi disse che era sua cognata. Era lei, dunque, che si era sposata il giorno prima. Mi aprirono la porta di una stanza che si trovava sul lato opposto del cortile e mi invitarono ad entrare. La camera, piccolissima, scrupolosamente ordinata e pulita, era arredata all'europea. A sinistra della porta si trovava un ampio letto matrimoniale. A destra un grande tavolo quadrato, ricoperto da un drappo di velluto verde scuro. Dietro, appoggiata alla parete, c'era una credenza nella quale si scorgevano alcune bottiglie e bicchierini da liquore. Le sedie intorno al tavolo completavano il quadro. Sembrava di essere in Francia, in un qualsiasi appartamento senza pretese di piccoli borghesi. Non c'era un solo oggetto dal quale si potesse riconoscere il paese nel quale ci trovavamo. Di sicuro si trattava della loro camera migliore, e tutte le altre stanze mi avrebbero interessato di più. Ma essi, facendomi accomodare lì, pensavano di usarmi un riguardo. La giovane donna, che capiva il francese, ma quasi non apriva bocca, prese bottiglia e bicchierini dalla credenza e mi versò una forte grappa che distillano gli ebrei di qui. La chiamano Maya e ne bevono in grande quantità. Più volte, parlando coi musulmani, avevo avuto l'impressione che essi, ai quali in effetti le bevande alcoliche sono proibite, invidiassero gli ebrei a causa di questa grappa. Il fratello minore mi invitò a bere. Ci eravamo seduti tutti e tre, lui, sua cognata ed io, mentre il fratello maggiore, lo sposo novello, rimase accanto alla porta, ancora per qualche istante in segno di cortesia, ma poi se ne andò per i fatti suoi. Aveva sicuramente molto da fare, e poiché comunque non riusciva a farsi capire da me, mi affidava alla moglie e al fratello più giovane. La donna mi osservava con i suoi occhi scuri e immobili. Non mi tolse mai lo sguardo di dosso, ma neppure il più lieve tremito del suo viso tradì ciò che pensava di me. Indossava un semplice abito a fiori, che probabilmente era stato comprato in un grande magazzino francese, e ben si intonava con l'arredamento della camera. Il suo giovane cognato, nel suo completo blu scuro, ridicolmente ben stirato, sembrava appena uscito dalla vetrina di un negozio parigino di abbigliamento maschile. L'unica stranezza di tutta la stanza era la carnagione scura di entrambi. Il giovane mi stava ora rivolgendo delle domande gentili, alle quali io cercavo di rispondere in modo altrettanto gentile, ma un po' meno rigido. E intanto continuavo a pensare che la bella e silenziosa persona che sedeva davanti a me si era da poco alzata dal suo letto nuziale. Erano ormai le ultime ore della mattina. Ma certo stamane si era alzata tardi. Io ero il primo estraneo che la vedeva da quando nella sua vita era intervenuto quel mutamento così essenziale. La mia curiosità per lei era identica alla sua per me. Erano stati i suoi occhi ad attrarmi in quella casa, e ora la donna fissava in silenzio il suo sguardo su di me, mentre io parlavo spedito, benché non a lei. Ricordo che durante quell'incontro mi pervase una speranza del tutto assurda. Sperai che in cuor suo la giovane donna mi paragonasse al suo sposo che tanto mi era piaciuto. Mi augurai che potesse preferire lui a me, la sua nobiltà e dignità così semplice e spontanea alla mia supponente estraneità, dietro alla quale probabilmente lei sospettava potere o ricchezza. Augurai a lui la mia sconfitta e ogni bene e felicità al suo matrimonio. Il giovane mi domandò da dove venivo. Dall'Inghilterra, dissi, da Londra. Per non confondere la gente, mi ero ormai abituato a semplificare così la mia risposta. Avvertii in lui una lieve delusione, ma ancora non sapevo che cosa avrebbe preferito sentirsi dire. «È qui per una visita?» «Sì». Non ho mai visto il Marocco. È già stato alla Bahia. Cominciò quindi a interrogarmi su tutte le bellezze ufficiali della città. Se ero stato qui, se ero stato là, e per finire si offrì come guida. Sapevo che basta affidarsi a una guida del posto per non vedere più nulla. E al fine di scoraggiare la sua speranza il più in fretta possibile e portare il discorso su altri argomenti, spiegai che ero lì con una casa cinematografica inglese e che il Pascià in persona aveva messo una guida a nostra disposizione. Per la verità, con questo film io non avevo niente a che fare, ma un mio amico inglese che lo produceva mi aveva invitato in Marocco e un altro amico che si trovava con me, un giovane americano, vi recitava una parte. L'informazione ebbe l'effetto desiderato. Egli non insistette più per mostrarmi la città, ma in compenso gli si aprirono ben altre prospettive. Non avevamo per caso un posto per lui. Sapeva fare di tutto. Da molto tempo era senza lavoro. Il suo volto, che aveva qualcosa di ottuso e di tetro, mi era apparso fino allora incomprensibile. Reagiva poco o con tale lentezza che bisognava supporre, sia pure controvoglia, che per la testa di quell'uomo non passasse proprio niente. Ma ora compresi che il suo abito mi aveva tratto in inganno sulle sue condizioni. Forse, nonostante quell'abito, sembrava così tetro perché da molto tempo era senza lavoro, cosa che forse in famiglia gli facevano pesare. Sapevo che nella società del mio amico tutti i piccoli incarichi erano stati affidati ormai da tempo e glielo dissi subito per non ingannarlo. Si avvicinò a me sporgendo un poco la testa al di sopra del tavolo e domandò a un tratto: «Êtes-vous israélite?» Con fervore gli risposi di sì. Era davvero piacevole poter dare finalmente una risposta affermativa. Inoltre, ero curioso dell'effetto che questa ammissione avrebbe prodotto su di lui. Egli rise con tutta la faccia, mostrandomi i denti, grandi e giallastri. Si voltò verso sua cognata, che sedeva a una certa distanza di fronte a me, e con un cenno vivace del capo le comunicò la sua gioia per questa notizia. Il viso di lei restò impassibile. Mi parve piuttosto lievemente delusa. Forse avrebbe preferito uno straniero del tutto straniero. Egli mantenne un'espressione raggiante ancora per un po', e quando poi cominciai a interrogarlo, le sue risposte mi giunsero con più scioltezza di quanto mi sarei aspettato. Mi disse che la cognata veniva da Mazagan. Non sempre la loro casa era così piena. I vari membri della famiglia erano venuti da Casablanca e da Mazagan in occasione del matrimonio, portandosi appresso i bambini. Ora abitavano tutti nella loro casa, e perciò, eccezionalmente, il cortile era così animato. Lui si chiamava Elida Han e fu orgoglioso di sapere che io portavo il suo stesso nome. Suo fratello faceva l'orologiaio, ma non aveva una bottega in proprio. Lavorava alle dipendenze di un altro orologiaio. Fui ripetutamente invitato a bere e mi misero davanti della frutta conservata, del tipo di quella che era solita preparare mia madre. Bevvi, ma rifiutai cortesemente la frutta, forse perché mi ricordava troppo quella di casa mia. E così suscitai finalmente una reazione sul volto della cognata, che dimostrò con chiarezza il suo rammarico. Raccontai che i miei antenati erano venuti dalla Spagna e chiesi se nella Mellà c'era ancora qualcuno che parlava l'antico spagnolo. Lui no, non conosceva nessuno, rispose lì, anche se certo aveva sentito parlare della storia degli ebrei in Spagna, e grazie a questa idea, peraltro assai vaga, sembrò prescindere per la prima volta da quel suo travestirsi alla francese e dai rapporti esistenti nella ristrettissima cerchia delle persone che conosceva. Poi riprese lui a far domande. Quanti ebrei c'erano in Inghilterra? Si trovavano bene? Come venivano trattati? C'erano tra loro uomini importanti? Avvertì ad un tratto come un senso di affettuosa gratitudine nei confronti dell'Inghilterra, un paese dove ero vissuto bene, nel quale mi ero fatto degli amici, e per farmi comprendere dai lì, gli raccontai di un ebreo inglese, Lord Samuel, che aveva conseguito un'alta reputazione politica. «Samuel?» domandò lui, e di nuovo il suo viso si illuminò tutto, sicché io supposi che avesse sentito parlare di Lord Samuel e che fosse informato della sua carriera. Ma in questo mi ero sbagliato. Infatti Eli si voltò verso la giovane donna e disse: «È lo stesso cognome di mia cognata. Suo padre si chiama Samuel». Io guardai lei con aria interrogativa. La donna annuì energicamente. Da questo momento le domande di Eli si fecero più audaci. La sensazione di essere un lontano parente di Lord Samuel, che, come gli dissi, era stato membro del governo inglese, lo infiammò. «C'erano altri ebrei nella nostra casa cinematografica?» «Uno», dissi. «Avrei potuto portarlo con me a far loro una visita?» Lo promisi. «Non c'erano per caso degli americani con noi?» Per la prima volta pronunciò la parola «americano». Sentì che per lui era una parola meravigliosa e mi resi conto del perché all'inizio era rimasto deluso per la mia origine inglese. Gli raccontai di un mio amico americano che alloggiava nel nostro stesso albergo. Dovetti aggiungere però che non era israelita. Rientrò nella stanza il fratello maggiore. Forse trovava che la mia visita fosse durata anche troppo. Gettò un'occhiata a sua moglie. Lei continuava a fissarmi. Mi sembrò di essere rimasto per lei e di non aver abbandonato la speranza di poterle parlare. Dissi al fratello minore di cercarmi pure al mio albergo quando ne avesse avuto voglia e mi alzai dalla sedia. Mi accomiatai dalla giovane donna. I due fratelli mi accompagnarono fuori. Lo sposo si mise davanti al portone. Sembrava quasi che volesse impedirmi il passaggio. E a me venne in mente che forse si aspettava del denaro per avermi fatto visitare la casa. Nello stesso tempo, però, non volevo offenderlo. Quell'uomo continuava a piacermi e così restai lì per un attimo, nel più penoso imbarazzo. La mia mano, che si era avvicinata alla tasca, si fermò a metà strada e io la sorpresi lì, come nell'atto di grattare. Il fratello minore venne in mio aiuto e disse qualcosa in arabo. Udii la parola «Jeudi», ebreo, riferita a me, e fui congedato con una stretta di mano amichevole, ma anche un po' delusa. Già il giorno appresso, Elida Ann si presentò al mio albergo. Non mi trovò e tornò più tardi. Io ero spesso in giro ed egli non ebbe fortuna. Forse pensò perfino che mi facessi negare. La terza o quarta volta, finalmente, riuscì a incontrarmi. Lo invitai a prendere un caffè ed egli mi accompagnò fino alla piazza, la Jamia al-Fanah, dove prendemmo posto in una terrazza del caffè. E lì era vestito esattamente come il giorno prima. All'inizio quasi non parlò, ma persino dalla sua faccia inespressiva si poteva arguire che aveva un gran peso sul cuore. Si avvicinò al nostro tavolo un uomo anziano che vendeva delle lastre di ottone istoriate. Dal suo berretto nero, dal suo abbigliamento e dalla lunga barba era facile capire che si trattava di un ebreo. E lei si chinò verso di me con fare misterioso e come se avesse da confidarmi una notizia eccezionale, così mi disse: «Sei un israelite?» Io annuii felice. Erano seduti intorno a noi moltissimi arabi e un paio di europei. Soltanto adesso, essendosi ristabilita tra me e lui l'intesa del giorno prima, egli si sentì più libero e tirò fuori la sua richiesta. Potevo dargli una lettera per il comandante del campo di Ben Gurion. Gli sarebbe piaciuto lavorare per gli americani. «Che tipo di lettera?» domandai. «Dica al comandante che deve darmi un posto». «Ma io il comandante non lo conosco affatto». «Gli scriva una lettera», ripetì, come se neanche mi avesse sentito. «Non conosco questo comandante», tornai a dirgli. «Gli dica che deve darmi un posto». «Ma non so neppure come si chiama. Come posso dunque scrivergli?» «Le dirò io il nome». «Ma che tipo di lavoro vorrebbe avere in quel campo?» «Comme plongeur», disse. E io credetti di ricordare che il plongeur è quello che lava i piatti. «Ci è già stato altre volte». «Ho lavorato come plongeur per gli americani», disse con molta fierezza. «A Ben Gurion, Sì. E perché se n'è andato? Sono stato licenziato, disse con la stessa fierezza. È passato molto tempo, un anno. Perché non prova a ripresentarsi? Ai marocchini non è permesso entrare nel campo, a meno che non ci lavorino. Ma perché è stato licenziato? Forse fu lei stesso a volersene andare a quell'epoca, aggiunsi con discrezione. Non c'era abbastanza lavoro, ne hanno licenziati tanti. Allora difficilmente ci sarà un posto libero per lei, se c'è così poco lavoro. Scriva al comandante che deve darmi un posto. Una mia lettera non sortirebbe in realtà alcun effetto, perché non lo conosco. Con una lettera mi lasciano entrare. Ma io non sono neppure americano. Gliel'ho detto che sono inglese, non si ricorda più. Corrugò la fronte. Era la prima volta che prestava ascolto a una mia obiezione. Ci pensò su e poi disse: «Il suo amico è americano». Adesso capivo. Io, l'amico in carne ed ossa di un americano in carne ed ossa, dovevo scrivere al comandante del campo di Benguerir una lettera, nella quale gli chiedevo di dare a Elidan un posto come plongeur. Dissi che avrei parlato col mio amico americano. Egli sapeva di sicuro che cosa bisognava fare in un simile caso. Forse lui stesso avrebbe potuto scrivere una lettera di quel genere, ma prima, naturalmente, dovevo chiederglielo. Sapevo che comunque non conosceva di persona il comandante. Scriva che deve dare un posto anche a mio fratello, a suo fratello, l'orologiaio. Ho anche un fratello più giovane, si chiama Simon. Che mestiere fa? È un sarto. Anche lui ha lavorato per gli americani. Come sarto? Contava la biancheria. E anche lui è già un anno che se n'è andato via. No, è stato licenziato 14 giorni fa. Ciò significa che per lui non c'è più lavoro. Scriva per tutti e due. Le darò il nome del comandante. Scriva dal suo albergo. Ne parlerò con il mio amico. Devo ritirare la lettera all'albergo. Venga tra 2 o 3 giorni. Quando avrò parlato col mio amico, saprò dirle se egli è disposto a scrivere una lettera per lei. Lei non conosce il nome del comandante? No, non lo conosco. Ma quel nome non voleva darmelo lei. Devo portarglielo in albergo, il nome del comandante? Sì, questo può farlo. Le porto oggi stesso il nome del comandante e lei gli scriva una lettera dicendo che deve darci un posto a me e a mio fratello. Il nome me lo porti domani. Cominciavo a spazientirmi. Non posso prometterle nulla prima di aver parlato col mio amico. Ma le dissi l'ora e il momento in cui avevo messo piede nella casa di quel giovane e della sua famiglia. Ora sarebbe venuto tutti i giorni, forse più di una volta al giorno, e sempre mi avrebbe ripetuto quella stessa frase. Mai e poi mai avrei dovuto accettare l'ospitalità di quella gente. In quello stesso istante egli mi disse: desidererebbe tornare in casa nostra. Adesso? No, adesso non ho abbastanza tempo, un'altra volta volentieri. Mi alzai e lasciai la terrazza. Elì si alzò con fare indeciso e mi seguì. Mi accorsi che esitava e dopo qualche passo domandò: «Ma lei ha pagato?» «No, me ne ero dimenticato. Avevo voluto fuggire da lui il più in fretta possibile e mi ero scordato di pagare il caffè che gli avevo offerto. Mi vergognai davanti a lui e così la mia irritazione svanì. Tornai indietro. Pagai e me ne andai a spasso con lui per la via che si inoltra nella Mellà. Egli si immedesimò ora nel suo ruolo di guida e mi fece vedere una quantità di cose che già conoscevo. Le sue spiegazioni consistevano ogni volta di 2 frasi. Questa è la Baia. È già stato altre volte alla Baia. Questi sono gli orafi. Li ha già visti gli orafi? Le mie risposte non erano meno stereotipate. Sì, ci sono già stato. Oppure, sì, li ho visti. Avevo un unico desiderio ormai: riuscire a fare in modo che egli non mi portasse da nessuna parte. Ma quell'uomo aveva deciso di rendersi utile. E le decisioni degli stupidi sono sempre di una risolutezza incrollabile. Quando vidi che non mollava, provai a giocare d'astuzia. Gli chiesi qualcosa sulla Birrima, il palazzo del sultano. Non c'ero ancora stato, dissi, ma sapevo bene che non era permesso entrare. La Birrima, ripeté felice. Mia zia abita proprio lì. Devo condurla dentro. Ora non potevo più dire di no. Non capivo proprio che cosa ci facesse sua zia nel palazzo del sultano. Che fosse la portinaia, oppure la lavandaia, o forse la cuoca. Mi attirava l'idea di poter entrare nel palazzo in quel modo. Chissà, forse avrei fatto amicizia con questa zia, e così sarei venuto a conoscenza di qualcosa riguardo alla vita che si svolgeva là dentro.